cioè queste atmosfere spettrali congegnate e messe in pratica da Joab Smalling nei suoi Foundation Op. Questo era un album del 2008, Our God is a Consuming Fire, un album che usciva per questa etichetta molto interessante proveniente dalla Lituania, che porta il nome di Outer Key. Salutiamo da Londra e a Londra Fabio F.K. Drone, valente artista che abbiamo anche apprezzato qui in prove tecniche con Coagulant, e ancor prima lo ricordiamo come Matter, un importante progetto elettronico di molti anni fa. Recentemente Fabio si è avvicinato invece a atmosfere più space e dark ambient. Altro astro è Giovanni Campagna, lui da Copenaghen, Soundog 65 Trench. Anche lui ci ha deliziato con i suoi progetti qui a prove tecniche di trasmissione e le ringraziamo di stare all'ascolto. Un saluto anche a Giulia qui da Roma e noi abbandoniamo Foundation Op. Andiamo da Gordon Sharp, indimenticato protagonista della scena sperimentale proveniente dalla Gran Bretagna. Una carriera controversa, una prima fase iniziata nella metà degli anni 80 e terminata alla fine dei 90 per riprendere poi nel 2012 con una dimensione artistica abbastanza diversa. E infatti negli ultimi anni si è avvicinato all'IDM, all'ambient, a atmosfere decisamente più rarefatte e dilatate rispetto agli esordi. Notiamo anche con piacere che Gordon Sharp si impegna in collaborazioni preziose, una su tutte, questa con Massimo Pupillo, bassista degli Zoo. Insieme hanno formato questo Becoming Animal, che ha dato alle stampe questo lavoro di quattro tracce dal nome Distant Hand Lifted, con atmosfere non dissimili molto in fondo da Foundation Op. Fortunatamente qui Gordon Sharp comincia anche a cantare e lo possiamo anche apprezzare in questa traccia dal nome Mesh Satellite. Come on from the mile around, holding on to the Intensissimo, questo è Distant Hand Lifted, album di esordio per Becoming Animal con Gordon Sharp dei Cindy Talk, una splendida voce fortunatamente rimessa in moto con questo nuovo progetto, insieme poi a Massimo Pupillo degli Zoo. Salutiamo anche Riccardo Martucci da Taranto e Gustavo qui da Roma. Insomma, questo è un album che al terzo o quarto ascolto ci ha letteralmente rapito, con queste atmosfere così rarefatte ma veramente profonde, che giustamente Antonio va anche a paragonare a certi episodi di John Balance, degli indimenticati Coil. Ci può anche stare il paragone, devo dire. Questo è un album che esce in Austria attraverso la Trost Records, questa nuova etichetta proveniente proprio da laggiù, un album uscito nell'ottobre dell'anno scorso. Prima abbiamo terminato il viaggio in Olanda, mentre noi lo continuiamo con Costanza nella Scandinavia, in questo Northern Lights, The Scandinavian Experimental System Survey, questo compendio ideato da Raffaele Pezzella, che saluto di nuovo. E quindi Raffaele è andato un po' a pescare questi artisti della scena scandinava, per la maggior parte sconosciuti e altrettanto validi. Un esempio: stasera ci andremo ad ascoltare Andreas Brandal, proveniente da Bergen, dalla Norvegia, con questo Plus 2, seguito subito da Janne Nummela, questo ovviamente finlandese, con Inclined Plane. le contorsioni di Andreas Brandal, ricordo artista norvegese. E da Norvegia qui si parla anche di Biosphere, un altro grosso calibro, Geir Jensen. Anche se Biosphere ritengo sia più, come dire, veramente polare e ovattato rispetto a queste asperità di Andreas Brandal. Appunto, adesso arriviamo in Finlandia. Le sperimentazioni estreme di Janne Nummela, Inclined Plane. Certo debole per questo tipo di sonorità, nello specifico questa di Janne Nummela, più direttamente legato all'esperienza dei dodecafonici e dei contemporanei, quindi John Cage, Karlheinz Stockhausen, ma anche Nars Whitwound naturalmente. Ottimo questo Janne Nummela, da tenere assolutamente sotto osservazione. Salutiamo Luca che ci bacchetta benevolmente dicendoci che lui c'è, ma il mercoledì sono troppo estremo e quindi dovrà, come dire, dotarsi di un po' di pazienza, giacché il mercoledì questo passa il convento, come si suol dire. Comunque lo ringraziamo di provarci quantomeno. Ci tengo a dire dunque di Anesples Sound Group, questo gruppo anche Facebook dove ci sono degli intenditori, dove si può ascoltare anche dell'ottima musica, questo sito come l'etichetta omonima curato da Raffaele Pezzella, che cura appunto anche questa compilation scandinava. Anche Roma non si risparmia per quanto riguarda, come dire, delle estremità, e abbiamo un nome molto interessante qui nella capitale che si chiama Nastro. E di Nastro questa sera invece ci ascoltiamo il terzo lavoro dal nome Terzo Mondo. Usciva attraverso l'Upside Down Recordings, un lavoro del 2014, con queste sghembe strutture spezzate, astratte a tratti, ma sicuramente molto molto particolari, a cominciare anche dai titoli, questi tre brevi brani dal nome Ast, Getz e Pan. Eccoli qua in Astro. Manipolati, questi bozzetti armonici così visionari di Terzo Mondo, album di Nastro, un album del 2014. Molto interessante questo suono ideato da Manuel Cascone e Francesco Petricca, che salutiamo. Nel gioco Facebook si ne nomine, chissà se è Manuel o Francesco. In ogni caso salutiamo i Nastro, che ascolteremo anche la prossima settimana. Un Antonio in ottima forma cita anche un pezzo di storia della scena italiana tipo Tasadei e tomografia assiale computerizzata, e anche Kiss 626 come termine di paragone, come pietra di paragone per quanto riguarda questi Nastro. Io aggiungo anche un pochettino di Residence, che non guasta mai, quantomeno l'approccio quasi zappiano rispetto alla follia, anche se lì in Frank Zappa c'era la chitarra, qui c'è tutt'altro contesto elettronico. Più seriosa invece la materia che passa attraverso l'arte di Godflesh, tornati in ottima forma recentemente con un nuovo lavoro dal nome Post Self. I Godflesh naturalmente con Justin Broderick alla chitarra e George Christian Green al basso. Andiamo dunque a conoscere questo Post Self. chiama Post Self, che ci ridanno i Gold Flesh in ottima forma. Il suono è classico, veramente doc, d'origine controllata, inconfondibili Gold Flesh. Le prime due tracce di questo splendido lavoro dal nome Post Self, e quindi la title track, e poi la seconda traccia dal nome Parasite. Anch'io spero, come il buon Antonio, che tornino presto in Italia, perché se la memoria non mi inganna, io li ho visti soltanto una volta, circa 20 anni fa, da queste parti. C'era un ottimo locale che si chiamava Circo degli Artisti. Ebbene, fu veramente devastante, a tal punto che per 3 giorni sono stato sostanzialmente sordo. Fu veramente duro. Fu dura la permanenza in quel posto. Bellissimo concerto, ma veramente è spossante dal punto di vista dell'impatto sonico. Peraltro qui vedo su Discogs che c'era anche un album che mi è completamente sfuggito, magari Antonio forse lo conosce, è World Lit Only Be Fire del 2014, che sinceramente, del quale sinceramente non avevo visto nessuna notizia in giro, sempre per l'Avalanche Recordings, chissà.